America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Buongiorno Simone. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon, beh, certo c'è una grande atmosfera francese a Washington. Ieri una visita di Barack Obama col presidente François Hollande a Monticello, la residenza di Thomas Jefferson, uno dei grandi padri fondatori americani, ma soprattutto ambasciatore americano in Francia a Parigi fra il 1785 e 1789, dunque proprio nel momento in cui stava per esplodere la rivoluzione francese. Ecco, una visita simbolica molto importante. Questa sera ci sarà la cena di Stato, nel corso della giornata ci sarà poi la vera e propria visita di lavoro con una gran quantità di dossier internazionali, a partire dal Mali per arrivare fino all'Iran, alla Siria, sul tavolo, questioni economiche, la questione dell'unione commerciale transatlantica e naturalmente l'aspetto delicato sull'eavesdropping, l'NSA e lo spionaggio americano. Ma di questo parleremo domani. Oggi voglio parlarvi del discorso di ieri del sindaco di New York, Bill de Blasio, perché ha pronunciato il suo primo discorso sullo stato della città, un bilancio da 70 miliardi di dollari e una gran quantità di cambiamenti rispetto alla gestione Bloomberg. Il tema di fondo di de Blasio è stato quello della disuguaglianza. New York è una città dove i poli sono veramente molto lontani fra loro e la sua missione, dice, è quella di cercare di ridurre questa distanza e promuovere l'uguaglianza. That is what we want for New York City. That is what we need for New York City. Ecco, l'avete sentito, un passaggio chiave, questo è quello che voglio per New York, quello di cui New York ha bisogno: combattere questo divario tra le due città, e non perché sia etico o perché sia la cosa giusta da fare, ma perché ci rende tutti più forte. Ecco, il tema disuguaglianza è dominante ormai da qualche tempo. Abbiamo visto il documentario di cui è stato protagonista Robert Reich, di Jacob Kronwall, che tra l'altro è candidato al premio Oscar, e possiamo risalire indietro negli anni, molti anni, quando per primo Krugman denunciò il fatto che ci fosse una disuguaglianza e soprattutto un abbattimento del livello della classe media. Ho con me ai microfoni di America 24 Massimo Gaggi, che si è occupato molto di questo tema, con cui voglio appunto affrontare una serie di questioni. Buongiorno Massimo. Salve Mario, buongiorno. Devo dire, insomma, Bill de Blasio diventa la bandiera per questo nuovo movimento politico di sinistra che vuole attaccare la percezione o la realtà di disuguaglianza. Ecco, la questione di fondo però è un po' più complicata, perché innanzitutto bisogna capire di quale disuguaglianza stiamo parlando e soprattutto dobbiamo capire se questo non sia davvero un movimento politico che può avere un futuro, che può, come dire, contrastare per esempio la corsa di Hillary Clinton, magari producendo un candidato della sinistra. Si è parlato di Elizabeth Warren, però potrebbero venire fuori altri candidati. Ecco, Massimo, qual è la tua impressione? Cominciamo da De Blasio. Ci crede davvero? Potrà fare qualche cosa? Rischiamo di creare qualche problema a New York? Sicuramente lui crede di poter interpretare un ruolo di avanguardia politica di un movimento nuovo, che in qualche modo è anche nelle intenzioni del Partito Democratico. Sicuramente Obama ha posto al centro della seconda parte del suo secondo mandato questo problema delle diseguaglianze, sarà anche un tema probabilmente della campagna elettorale di Hillary Clinton se si candiderà. Ma l'intensità, la misura dell'impegno e delle proposte abbastanza radicali de Blasio rischiano di squilibrare, a mio avviso, questo impegno democratico. Appunto, se dovesse emergere una candidatura come quella di Elizabeth Warren, per esempio, credo che la sinistra si spaccherebbe, e questo tutto sommato andrebbe a vantaggio dei repubblicani. Lo vediamo già nell'atteggiamento del governatore dello Stato, di Andrew Cuomo, del governatore dello Stato di New York, che deve tener conto non solo della metropoli liberal, ma anche dell'upstate, della parte settentrionale dello Stato, in cui invece prevalgono famiglie che hanno una visione più moderata e in qualche caso più conservatrice della politica e degli equilibri sociali, che Andrew Cuomo è assolutamente contrario all'aumento delle tasse per finanziare per esempio gli asili e le scuole pre-K, perché evidentemente anche in campo democratico esiste una preoccupazione per il rischio che si sposti un po' troppo a sinistra questo asse, e bisogna tener conto che De Blasio è un sindaco che per statuto, per costituzione dello Stato, ha poteri limitati di intervento in queste materie socio-economiche, quindi anche il rischio di essere un po', come dire, velleitari nel gestire questa campagna. Ecco, Massimo, allarghiamo il tema alla questione della disuguaglianza. C'è stato questo film, devo dire, molto interessante, ma secondo me con qualche limite nell'avanzare questa tesi. Te ne cito uno. Si parla molto di riduzione in termini reali del reddito dell'individuo dagli anni 70 fino adesso. Il lavoratore guadagna di meno in termini reali, ma non si fa mai un confronto su quello che è il reddito della famiglia. Una delle ragioni delle diminuzioni del reddito del singolo lavoratore è perché la forza lavoro femminile si è presentata sul mercato, e dunque ci sono, per esempio, in una famiglia due persone che lavorano invece che una persona soltanto. Dunque una delle tesi è che il reddito della famiglia nel suo insieme in termini reali in realtà è aumentato. Ecco, secondo te questo documentario è molto di parte oppure tocca una corda reale della società americana? Secondo me è costruito in modo abbastanza radicale e sceneggia molto la realtà, però in una certa misura io penso che tocchi una corda reale, perché quello che tu dici è vero: il reddito familiare è una cosa diversa dal reddito individuale, però è anche vero che negli ultimi 30-40 anni, quindi ben prima che arrivasse poi Bush alla Casa Bianca, gli equilibri sono cambiati, e questo non per fattori che hanno solo a che vedere con la globalizzazione, ci sono entrati le politiche fiscali di Bush, ci sono entrati tanti altri fattori, a cominciare dalle tecnologie, dall'automazione, e quindi sono anche fattori che difficilmente possono essere cambiati con delle correzioni facili o delle correzioni che possono essere fatte addirittura da un amministratore locale. Ecco, Massimo, un pronostico: ma riuscirà questo documentario film a vincere l'Oscar? Non lo so, è anche possibile. In fondo i miliardari del cinema sono sensibili a questi temi, esattamente come i miliardari del Responsible Wealth Project di New York, cioè miliardari responsabili che sono preoccupati dall'eccesso di diseguaglianza che può creare ostilità nei confronti dei ricchi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Hollande alla Casa Bianca, e dunque Ella Fitzgerald, I Love Paris, un grande, bellissimo, nostalgico classico. I love Paris in the springtime. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.